L'altra Europa. Buon sabato da Federico Taddia e benvenuti all'Altra Europa in diretta dagli studi di Milano di Radio 24, il nostro appuntamento settimanale che ci accompagna a scoprire l'Europa da altri punti di vista. Cerchiamo altre sfaccettature, cerchiamo altre voci, insomma cerchiamo di raccontarvi quello che magari non viene raccontato. Seguiamo anche noi l'attualità, ma non solo. Un programma in collaborazione con il network Euronet, www.euronet.eu. Siamo in diretta, ci potete scrivere via SMS al 349-238-6666 oppure ci trovate nelle nostre pagine ufficiali nei Facebook, facebook.com/l'altra Europa, pagine che aggiorniamo in diretta segnandovi tutti i link relativi agli argomenti che andiamo a toccare. E oggi partiamo anche noi parlando della giornata della memoria che si è tenuta pochi giorni fa, con un'esperienza di contaminazione, una strana contaminazione italo-turca tedesca in salsa Yiddish. Per la vita è il nome di un concerto, il nome di uno spettacolo promosso dal Goethe Institute di Torino in collaborazione con i comitati per la resistenza e la costituzione del Consiglio regionale del Piemonte e del Consiglio provinciale, che hanno portato questo spettacolo a Torino, ad Alessandria, spettacolo che ha debuttato il 27 gennaio a Monaco. Uno spettacolo che vede sul palco Esther Bejarano, che è una 86enne sopravvissuta al campo di Auschwitz, perché lei, musicista, pianista, bleffò, imparò in frettissima a suonare la fisarmonica e grazie a questo suo talento insomma riuscì a uscire dal campo, perché c'era bisogno di lei, c'era bisogno della sua musica, veniva utilizzata dai tedeschi, ma grazie appunto a questa sua capacità è uscita viva dai campi. E questa memoria, questa esperienza l'ha continuata a portare negli anni insieme ai figli, anche loro musicisti. Però è nato questo strano incontro con due rapper, un turco e un tedesco di origini italiane, Microphone Mafia, ed è nato questo strano concerto. E con noi c'è proprio Rosario Pennino, il componente dei Microphone Mafia. Ciao Rosario. Ciao, buongiorno. Buongiorno a te. Come va? Noi molto bene, voi? Siamo sull'autostrada che stiamo andando a Colonia, andiamo a casa, è tutto a posto qua. Come sono andati gli spettacoli? Com'è stata la reazione del pubblico, l'emozione anche sul palco? Sì, le emozioni ci sono stati, perché prima che incomincia il concerto la signora Bejarano, Esther Bejarano, fa la lettura del suo libro. E le emozioni al pubblico ci sono stati, perché è una cosa meravigliosa questa signora, cosa ha passato nel campo di Auschwitz, e poi di raccontare di queste brutte storie, che è una cosa meravigliosa, che poi c'è ancora la forza di parlare, di dire queste cose. Pronto? Sì, siamo qui. Esther. Ah, sì, siamo nel tunnel. No, fermati. Esther, appunto, che ha portato in giro per l'Europa questo spettacolo, ma anche voi come Microphone Mafia suonate in vari continenti. Ma come nasce l'idea, Rosario, di questo gruppo rap turco-tedesco-napoletano, e com'è stato l'incontro con gli Yiddish di Esther? Sì, allora, noi la Microphone Mafia ci esiste già dall'89. Noi, Kutlo e io, il mio amico che rappa turco, sì. Ci conosciamo già da 31 anni, cioè da bambini. Abbiamo fatto sempre scuola insieme. Pronto? Pronto, sì, tranquillo Rosario. Sì, ok. Abbiamo fatto scuola insieme, abbiamo giocato al pallone insieme, poi un giorno abbiamo detto facciamo un po' di rap musica, è stata un'idea così, ho detto io... Ecco, adesso sì che l'abbiamo perso, in effetti, perché è in viaggio. Gli abbiamo detto di fermarsi e facciamo così, mentre lo recuperiamo, ascoltiamo anche Rosario, allora, nel suo rap napoletano, in questo pezzo intitolato Shalom. Non riusciamo a recuperare Rosario, ma questo insomma è l'esperienza, un assaggio che vi abbiamo voluto offrire di quello che è successo. Anche questa è l'altra Europa, anche questa insomma è raccontare, fare memoria con una bella contaminazione, storie di razzismo di questi due amici che si sono conosciuti in Germania, ma tutti e due stranieri in terra tedesca, in questo incontro con Esther ed è nato per la vita uno spettacolo molto emozionante, così hanno testimoniato le tante persone che l'hanno visto. Anche questa è l'altra Europa, un post post-it, un euro post-it, delle informazioni per chi sta viaggiando. Poi torniamo qua. Euro post-it. Se questa è Europa. È una mostra fotografica realizzata dai ragazzi vincitori del concorso Se questa è Europa, sul tema dei diritti umani e il ricordo delle vittime dei campi di sterminio nazisti. È stata inaugurata in occasione della Giornata della Memoria a Palermo. Nelle sale ex Cavallerizza di Palazzo Sant'Elia sono esposte le 45 fotografie che compongono la mostra, realizzate nei campi di sterminio austriaci di Mauthausen e Struthof, durante il viaggio di istruzione dei ragazzi. Proprio loro hanno scelto che cosa mettere in evidenza e che cosa è rimasto loro più impresso di questa visita. Ed ora lo condividono con il pubblico della mostra. Per vederla c'è tempo fino a venerdì 4 febbraio. Quello che state ascoltando, quello che state ascoltando è l'audio delle drammatiche immagini che abbiamo visto in televisione, in rete in questi giorni, riguardanti la manifestazione, le manifestazioni in Albania. In queste ore tutta la concentrazione, per ovvi motivi, è su quello che sta accadendo in Egitto. Noi però, come Altra Europa, vogliamo tornare in Albania. Perché? Perché ieri c'è stata un'importante manifestazione pacifica antigovernativa per commemorare i 3 membri dell'opposizione uccise durante la protesta della settimana scorsa, ma la situazione è assolutamente non risolta, la tensione è ancora molto alta. Quindi, per fare un'analisi di quello che è successo, di quello che sta accadendo, abbiamo invitato Mariola Rucai, corrispondente dell'Osservatorio Balcani e Caucaso dall'Albania, che ha seguito con un lavoro intenso in questi giorni tutta la situazione albanese e insomma, e quindi ha veramente il polso della situazione. Ciao Mariola, benvenuta all'Altra Europa, bentornata. Buongiorno, ciao. E allora Mariola, tu tra l'altro in queste ore sei a Berlino per motivi professionali, sei da un paio di giorni, subito a caldo la manifestazione di ieri, so che l'hai potuta seguire anche da lì perché la rete ha dato una grossa mano. Cos'è accaduto, quali sono state le opinioni, le voci che ti hanno riportato anche i tuoi colleghi, i tuoi amici là? Sì, ecco, io ho potuto seguire tutto in diretta poiché, come ho già detto anche in altre interviste in questa emissione, praticamente le TV, insomma i media in Albania sono molto all'avanguardia, quindi si può seguire tutto attraverso i migliori sistemi, insomma più d'avanguardia d'Europa. Mi è sembrata una manifestazione, direi, sorprendentemente positiva, nel senso molto pacifica, e vi è stata un'adesione da parte della cittadinanza che nessuno si aspettava, poiché secondo le stime sono stati 200.000, secondo le stime che sono state rese pubbliche da parte dei socialisti, quindi da parte degli oppositori che hanno organizzato appunto questa manifestazione, e sono state però 5.000 secondo la polizia, che al momento si trova molto soggiogata ai dettami del premier. Certo. Sicuramente non saranno stati 200.000, però è un po' difficile dire che siano stati appena 5.000. Sì, insomma, le immagini anche che si vedono in rete, la folla è sicuramente più numerosa delle 5.000 persone ufficialmente date. E Mariola, prima di fare un'analisi di quello che è accaduto in questi giorni, del perché si è arrivata a queste manifestazioni, salutiamo anche un tuo collega, lui si trova in Albania, a Tirana, lui ieri era alla manifestazione, è uno storico, è un giornalista, diamo il benvenuto ad Artan Puto. Ciao Artan. Ciao, grazie per l'invito. E, ci siamo sentiti ieri prima della manifestazione, mi parlavi insomma, di una situazione di tensione, c'erano dei timori, manifestazione che però di fatto è stato un grande corteo funebre in omaggio ai 3 membri dell'opposizione uccisi, forte dispiegamento di polizia e di uomini della sicurezza, com'è andata dal di dentro? Visto che cosa è successo la settimana scorsa, difficilmente poteva accadere un altro evento così violento, perché cioè, durante questi giorni ci sono state anche delle pressioni, diciamo, dagli internazionali, e quindi Questo ha influito nell'organizzare, diciamo, questa manifestazione pacifica, ma credo che c'è stata anche una volontà chiara da parte dell'opposizione di dimostrare, diciamo, agli internazionali che avevano delle paure che la situazione poteva degenerare, di dimostrare, ecco, che sono capaci di organizzare manifestazioni pacifiche, quindi per dimostrarsi una forza che non incita alla violenza ma è contro la violenza. Secondo me questa era l'intenzione. E poi, cioè, era un'occasione per raccogliere gente e quindi per dimostrare che l'opposizione ha il sostegno, diciamo, popolare, diciamo. Certo, e prima di entrare un po' in un'analisi di questi giorni della situazione albanese, Artan, volevo chiederti, ma appunto la popolazione, la città, in questo caso Tirana, dove comunque il sindaco di Tirana è anche a capo dell'opposizione, quindi è fortemente coinvolto in questa fase storica, la città, i cittadini, cioè la quotidianità delle persone ne risente di quello che sta accadendo, o c'è un distacco tra quella che è la vita reale e quella che è la vita politica? Ma la quotidianità io non direi che è veramente influita da questi eventi, salvo, diciamo, i giorni precisi quando ci sono queste manifestazioni, e ovviamente la tensione sale di più. Ma gli altri giorni, ecco, cioè, la tensione secondo me si emette più dai media, cioè quando vediamo, seguiamo i telegiornali o quando leggiamo i giornali, diciamo, e lì capiamo che c'è una tensione altissima, ma direi che durante il giorno, cioè un giorno normale, non è che vediamo presenza di polizia o presenza di esercito, quindi la quotidianità secondo me non è anormale, ecco. Ok, www.balcanicaucaso.org è il sito dell'osservatorio Balcani e Caucaso, dove potete trovare i dossier di Mariola Rucai. Mariola, ci puoi fotografare un attimo la situazione? Tu sei una giornalista, tu conosci benissimo la situazione albanese, in quanto, insomma, sei albanese, sei una professionista e hai seguito sempre un po' con occhio coinvolto ma anche distaccato quello che sta accadendo. Che cos'è l'Albania oggi? Perché si è arrivati a queste manifestazioni? Questa manifestazione, intendo quella di una settimana fa, che poi ha appunto portato sull'orlo di una crisi, è paragonabile probabilmente, come molti paventano, a quella del 97, in realtà appunto una crisi che si protrae da circa un anno e mezzo, da 17-18 mesi ormai, e che appunto è la conseguenza diretta delle elezioni del giugno 2009, che non sono state tenute conformi agli standard europei, appunto, ma sono state caratterizzate da una serie di brogli e di irregolarità di tutti i tipi, che hanno portato comunque al potere il premier Berisha, mentre l'opposizione, seppur tra mille incoerenze e coinvolta appunto da molti schemi, da un calcolo come meglio raggiungere il potere, sì. L'opposizione appunto si è tenuta ferma sul non accettare questi risultati e sul chiedere nuove elezioni, o meno la riconta appunto delle urne, insomma, e del materiale irregolare. E nel corso di questi mesi vi sono state diverse manifestazioni che hanno visto, insomma, gli albanesi scendere in piazza anche in maniera molto più pacifica appunto rispetto a quello che è stato il 21 gennaio, e quello che invece è stata la scintilla che ha fatto traboccare il vaso è stato un video in cui si vedevano appunto un episodio di corruzione palese, nepotismo, sì. In cui erano coinvolti due ministri dell'attuale governo, e niente di nuovo in realtà, erano cose che si sapevano, però questo appunto da scintilla, piuttosto probabilmente, come sottolinea noto analista Fatos Slobogna, probabilmente anche un po' inscenata o piuttosto anche pensata per probabilmente per cogliere l'attenzione del pubblico internazionale, insomma della politica internazionale, che sembra essere più propensa a mantenere lo status quo e quindi a sostenere Berisha, piuttosto che, nonostante insomma la sua lacunosità democratica, che è stata appunto anche gli è stata perdonata semplicemente anche durante le monitorazioni di queste di queste elezioni certo. del 2009. Mm-hmm. E in cui è stato detto sì, non erano democratiche, però erano le più democratiche che si sono mai avute, quindi vi è uno standard piuttosto tollerato, piuttosto adeguato a un paese che non viene preso sul serio a livello internazionale, quindi questa era la volta buona per far capire alle cancellerie internazionali occidentali, insomma, che c'è questo problema in Albania e va sostenuta alla giusta parte, anche se che è purtroppo l'unica alternativa, nonostante non sia del tutto pulita a livello sì. Alternativa, insomma, politica sì, valida. Sì, certo. Artan, scusa, dal tuo punto di vista ora che accadrà? Nel senso che ieri forte gesto di responsabilità, questa manifestazione pacifica, però imponente, cioè l'opposizione c'è e si è fatta sentire nel silenzio di ieri con questa massiccia presenza in piazza. Cosa ti immagini che potrà accadere? Nell'analizzando diciamo la situazione in Albania, mi voglio fermare anche un po' sulla figura del premier, perché secondo me quella è importante. È molto importante di sapere il contesto già accennato da Mariola, il contesto che è precedente diciamo di questo, perché non siamo arrivati a caso il 21 gennaio, diciamo in quei eventi violenti. Ecco, questo premier diciamo è una figura politica che purtroppo ha nel suo palmarès una collezione di ricorsi molto diciamo molto, cioè lui ricorre molto spesso a atti violenti, e questa non è la prima volta. Lui ha occupato tutti gli incarichi politici più importanti nel paese, è stato presidente della Repubblica, è stato per 8 anni leader dell'opposizione, è stato 2 volte primo ministro. Ecco, lui in tutti questi casi non ha esitato di fare ricorso all'uso della violenza. Basta ricordare le elezioni del 96, basta ricordare diciamo gli eventi del 97, basta ricordare l'assalto all'edificio del Consiglio dei Ministri nel 98, basta ricordare l'assalto violento dei suoi sostenitori nel 2000 in una città del nord del paese contro la stazione della polizia. Quindi secondo me quando gli internazionali fanno il punto sulla situazione in Albania, loro non escludo la buona volontà, ma loro non sono corretti quando mettono l'opposizione e il governo sullo stesso piano, perché secondo me, secondo il mio parere, responsabilità sono molto diverse e le responsabilità del governo sono molto più importanti di quella dell'opposizione. Adesso cosa farà l'opposizione? Io sinceramente non so prevedere con precisione cosa accadrà in questi momenti, ma prevedo che loro tentano di organizzarsi meglio possibile per andare al tavolo delle negoziazioni molto più solidi, molto più forti, ecco, per mm-hmm. dimostrare a Berisha che abbiamo un sostegno cospicuo, quindi ci deve prendere in considerazione molto più seriamente che prima. Ok, quindi insomma speriamo appunto in un ritorno del dialogo, però con nuovi equilibri. Artan Puto, ti ringrazio molto. Secondo me dipende moltissimo dalla pressione che fanno gli internazionali, perché se lasciate da solo, diciamo, io difficilmente potrei vedere una soluzione vicina. Quindi insomma si auspica una presenza dell'Unione Europea in primis. Grazie davvero ad Artan Puto, storico e giornalista albanese, a Mariola Rukai, corrispondente dell'Osservatorio Balcani e Caucaso. Sicuramente ci ritroveremo in una delle prossime puntate dell'Altra Europa. Ciao e buon sabato! I vostri sms al 349-238-6666 oppure l'altra Europa @radio24.it se volete scriverci via mail, ma ci trovate nei Facebook, facebook.com/l'altra Europa, le nostre pagine ufficiali dove stiamo caricando tutti i link relativi agli argomenti che tocchiamo, le varie segnalazioni, gli articoli anche da cui prendiamo spunto per le nostre interviste. Cambiamo completamente argomento. Voi sapete, noi facciamo parte di Euronet, questo network di radio europee. Ogni settimana scegliamo anche un argomento comune che cerchiamo di affrontare, ognuno dal proprio punto di vista. Il tema scelto questa settimana è la libertà della stampa in Europa. Questa libertà di stampa è in pericolo, le classifiche di Giornalisti Senza Frontiere, insomma la classifica presentata, ci sono varie nazioni europee che non sono in bellissima posizione per quello che riguarda la libertà della stampa nel proprio paese. La legge ungherese, la cosiddetta legge Bavaglio, che tanto ha spaventato, personalmente penso anche giustamente, insomma ci sono varie spinte, ci sono varie indicazioni che fanno notare che al riguardo della libertà di stampa ci sono posizioni ben diverse anche all'interno del nostro continente e insomma alcune posizioni anche fanno paura. Per parlare di libertà di stampa in Europa abbiamo invitato il responsabile della versione italiana di Caffè Babel. Caffè Babel è un esperimento, un'esperienza che dura ormai da 10 anni, proprio oggi festeggiano i 10 anni, è una piattaforma comune europea di giornalismo partecipativo. Ci colleghiamo in diretta da Strasburgo proprio con Federico Iarlori per farci raccontare che cos'è Caffè Babel e farci raccontare dal suo osservatorio privilegiato cosa si respira in Europa riguardo della libertà di stampa. Ciao Federico, benvenuto all'Altra Europa. Ciao, grazie Federico, ciao a tutti. Allora Federico, una giornata importante per voi, un weekend importante lì a Strasburgo, cosa sta accadendo? Sì, allora abbiamo infatti questo evento importantissimo per noi, festeggiamo i 10 anni di Caffè Babel e questo evento appunto si chiama Shake Up Europe e praticamente includerà tutti i più grandi media europei, o meglio media europei giovani, che cercano di raccontare l'Europa da un punto di vista un po' particolare, un po' diverso. E quindi l'occasione di festeggiamenti è anche quella di conoscerci tra di noi e di indagare un po', cercare di capire qual è il modo migliore per parlare d'Europa e soprattutto per parlarne ai giovani. Ecco, Caffè Babel, questa rivista europea, come funziona? Siete una redazione multilingue, fate articoli sì. comuni che poi vengono tradotti in varie esatto, versioni? Cioè, sì, noi abbiamo una sede centrale che è a Parigi, siamo 6 editori, quindi un editore per ogni lingua, e poi abbiamo una rete di redazioni locali che sono sparse in tutta Europa. La sede di Parigi, diciamo che è il cervello che coordina e che detta, diciamo, la linea editoriale, e ogni articolo che viene inviato dalla rete che è sparsa in tutta Europa viene tradotta nelle 6 lingue. Per cui insomma è un esperimento che dura appunto da 10 anni, come dici tu, ed effettivamente unico nel panorama insomma dei media europei. Ecco. Esperimento anche che vede insomma la collaborazione di giornalisti professionisti, ma anche con giovani, perché molto si basa anche sul volontariato, no? Su una partecipazione esatto, diretta sì, e gratuita. Sì, siamo tutti, diciamo, volontari, a parte i 6 editori di Parigi. Tutta la nostra rete è una rete di volontari, cioè quindi è praticamente proprio un esperimento di giornalismo partecipativo, per cui è la vera voce, un giornalismo senza limiti, ecco, possiamo dire, ed è veramente un giornalismo libero, nel senso che non abbiamo alcun tipo di filtro e ciascuno può raccontare la propria esperienza, il proprio vissuto, il proprio punto di vista, ovviamente nel rispetto delle regole deontologiche della professione, ovviamente, ma senza freni. Ecco. www.caffebabel.it, il sito ufficiale ufficiale in home page oggi. Giovani giornalisti in Montenegro, perseguitati, missionari e testardi. Anche qui si parla di libertà di stampa, ma tra le mani anche un altro dossier intitolato L'Europa e la libertà di stampa. L'Ungheria non è un caso isolato. Federico, dal tuo punto di vista, mi interessava avere una riflessione per chi c'è dentro a questa esperienza di giornalismo partecipativo, quindi la libertà di stampa tenta di respirarla, di farla diventare una missione quotidiana. Ecco, dal vostro osservatorio, quali sensazioni avete? Ma noi abbiamo la sensazione che il problema della libertà di stampa venga spesso strumentalizzato, nel senso che spesso e volentieri abbiamo gli stessi problemi, le stesse limitazioni della libertà di stampa in vari paesi, solo che per un motivo o per un altro si pone l'accento su uno o sull'altro paese per strumentalizzare la vicenda. E per esempio il caso dell'Ungheria, noi abbiamo ricevuto una proposizione spontanea di articolo da un ragazzo irlandese che ha scritto appunto questo articolo ha fatto un panorama sulla situazione in Ungheria, dicendo in questo caso si è stati un po' ipocriti, perché si è parlato del problema della legge bagagli in Ungheria solo perché è la presidenza di turno dell'UE, quando invece sono state fatte leggi pressoché molto simili, con diversi punti in comune, in Repubblica Ceca o in Slovacchia ad esempio, ma nessuno ha parlato, nessuno ha detto nulla. Questo per esempio è un punto, è un altro punto di vista che viene fuori dalla base, cioè da un ragazzo, da uno studente che si sentiva di dover dire è ipocrita parlare dell'Ungheria perché la stessa situazione la vivono altri paesi. Adesso ne si parla solo perché è in testa, diciamo, all'agenda setting, proprio perché c'è la presidenza di turno dell'UE. Ecco, per esempio questo è un punto di vista originale. Montenegro. Esatto, come sono molto belle queste storie che avete scovato in Montenegro. Sì, in Montenegro anche, ecco, appunto, per esempio, dare voce ai piccoli in un certo senso, perché del Montenegro non si parla mai. Noi qui siamo andati on the ground, quindi siamo andati sul posto senza troppi mezzi, ma solo armati di tanta buona volontà, bisogna dire la realtà, nel quadro di questo progetto che abbiamo intitolato Oriente Express, quindi la scoperta dei Balcani in un certo senso, e abbiamo scoperto che in Montenegro fare il giornalista è davvero difficile e si incontrano ragazzi di 21-22 anni, giornalisti coraggiosissimi che cercano di sfidare il potere, un potere che fino a pochi anni fa praticamente aveva imbrigliato, cioè esisteva solo un giornale, Pobieda, che era il giornale praticamente come se fosse un giornale di regime, tra virgolette, nel senso assolutamente filo governativo, e adesso insomma sono sorti altri giornali come il Dan per esempio, che corrisponde al Le Monde, potremmo dire, al Le Monde francese, che rappresenta una voce discorde e molto scomoda, e per questo insomma è una lotta, questi giornalisti devono lottare ogni giorno con il governo che vuole soffocarli, che vuole tappargli la bocca, e secondo me in pochi ne hanno parlato, per cui noi siamo orgogliosi insomma di poter dare visibilità a queste storie così vere e così autentiche. Siamo un ottimo esempio quello che fate quotidianamente di libertà di stampa. Federico, grazie davvero. Ora www.caffebabel.it. Ricordiamo tra l'altro Federico che Federico Iarlori sei a fine mandato sì. c'è un cambio alla guardia della responsabilità delle pagine italiane. Sarà Nicola Card il prossimo responsabile, che era un collega qui di Radio 24, quindi ci piace questa contaminazione. Sì. Vi saluta tutti, e qui anche lui che fa parte dei lavori, siamo tutti e due insieme. Perfetto, buon lavoro, buon weekend e un grazie mille, a tutto Federico. Il team. Ciao. A presto, ciao. Caffebabel.it. Europost-it. Shoot for Change. Scattare e condividere foto per cambiare il mondo. Lo propone il sito Shoot for Change, fatto da giornalisti, reporter, fotografi professionisti volontari e tutti quelli con il pallino della fotografia che si vogliono unire alla loro causa. Cioè, dare un occhio ed una lente a chi non può far vedere i suoi colori. Chiunque veda una storia che deve essere documentata, ma anche un'immagine bella, naturale o un colore che rifletta la bellezza dell'umanità, può scattare una foto e unirsi ai volontari compilando il loro modulo di partecipazione e poi inviare i suoi scatti. Prendete la macchina fotografica ed andate su shootforchange.net. Kaislības saimes namā uzjundījis deputāts, kurš līdz šim īpašu uzmanību sev nav pievērsis, Valērijs Kravcovs. iespējams personisku antipātiju dēļ, iespējams valodas nezināšanas dēļ. Kravcovs neapmeklē pilsonības likuma izpildes komisiju, kuru vada deputāts Visvaldis Lācis. Iemesls var tikai minēt, jo Kravcovs quello che state ascoltando è un servizio in eletto, estrapolato da un telegiornale locale, una storia curiosa di quelle che ci piace andare a trovare in giro per l'Europa. È la storia di un deputato lettone, Valery Krakow, di origine russa, deputato lettone che non conosce il lettone. Insomma, è stato un po' il protagonista della cronaca di questi giorni in Lettonia, perché i nazionalisti hanno presentato contro di lui una mozione di espulsione dal Parlamento. Appunto, dicono, può un deputato lettone non conoscere la lingua? E l'hanno di fatto scoperto, perché si sono accorti che durante l'incontro in Parlamento aveva un auricolare, aveva una sorta di traduzione continua e simultanea di quello che stava accadendo. Insomma, è lui l'uomo del momento in Lettonia, e per capire come sta andando la storia abbiamo invitato un'amica lettone che già abbiamo conosciuto in alcune puntate fa, un'artista, una pittrice, si chiama Ilze Jaunberga. Ciao Ilze! Buongiorno! Buongiorno a te, ciao. Come stai? Sempre meglio. E i telegiornali hanno parlato molto di questa storia, vero? Sì, storia è diventata molto, così dire, popolare. Vogliono davvero espellere signor Kravcovs perché non capisce lingua del Parlamento nostro, perché per governare il paese facendo il lavoro del parlamentare dovrebbe capire di che cosa sta votando. Quello sì. Tra l'altro pare che abbia fatto, insomma, prima della votazione che c'è stata, ed è stato salvato, nel senso che l'espulsione, sì, adesso, è vero. Adesso lui daranno a lui intero anno per imparare lingua, ma c'è contraddizione e in tale cosa che per candidarsi deve essere cittadino, per diventare cittadino deve passare esame di lingua, sì. Così risulta che ha ottenuto cittadinanza in modo fraudolento. Ah certo, perché lui l'esame di lingua l'avrebbe anche passato, in verità la lingua non la conosce, anche quando ha fatto questo discorso in lettone, insomma le telecamere hanno scoperto che di fatto stava leggendo su un bigliettino in cui aveva scritto in cirillico, quindi insomma la situazione è confusa, ma si è fatta anche ironia, immagino, su questo personaggio, o no? Sì, certo, ma anche troppa, ma in realtà è illustrazione di società molto divisa, credo, sì. E si può dire anche elettorato lo voleva proprio così, ma legge chiede conoscere che cosa succede in Parlamento, di che cosa stai votando, e poi potrebbero espellere, sì. Ma potrebbe risultare anticostituzionale, e alla fine tutti i partiti usano questo caso per alzare proprie popolarità. Certo, lui ha chiuso il suo discorso dicendo un siberiano non si inginocchia mai, quindi insomma ha tirato fuori tutto il suo orgoglio, ma è una situazione rappresentativa, vero, un po' della spaccatura che c'è in Lettonia. Purtroppo questa storicamente è successo così che vorremmo evitare essere paese bilingua o bilinguale, come sì, si deve dire, bilingue. Ma integrazione non ha avuto successo, ma comunque è proprio illustrazione di problema, forse. Infatti è molto rappresentativo, e vi invito veramente ad andare sulle nostre pagine Facebook, perché insomma potete vedere e conoscere meglio la storia. Ilse, grazie davvero, e abbiamo pubblicato anche il tuo sito ufficiale. Sarai presto a Venezia con una mostra, vero? Sì, durante Carnevale, Calle Grande San Barnabacco Art Gallery, proprio durante Carnevale. Perfetto. Vengo ogni anno. Complimenti. Grazie davvero. Ciao e buon sabato. Ciao Ilse. Ciao. Grazie ciao. A voi. Ciao. Europostet. Danzica, una città al top. La città polacca di Danzica è appena entrata nella classifica delle 41 destinazioni mondiali da visitare stilata dal New York Times. La città, infatti, sta puntando molto sul turismo, perché sarà una delle città che ospiterà gli europei di calcio del 2012 in Polonia e Ucraina. La perla del Baltico oggi si può raggiungere con voli diretti da Roma Fiumicino e da Bergamo Orio al Serio. Una volta arrivati, si possono fare gite in nave, che partono dalla città vecchia, lungo il fiume Motlava, ma anche vedere gli antichi edifici sul lungo fiume che ospitano negozi di antiquariato, ristoranti e caffè. Oltre al Museo dell'Ambra, sulle sponde del fiume c'è il Museo Navale, che è composto da tre diversi edifici e ricostruisce la gloriosa storia del porto, uno dei più importanti d'Europa, nel Rinascimento. Il biglietto di ingresso include anche il tragitto in battello da un museo all'altro, sulle due rive del Motlava. Il sito internet della città è ricco di informazioni in tante lingue. gdansk.pl. E chiudiamo la puntata di oggi facendo un po' di satira europea, anche se le vittime siamo noi italiani. Insomma, le ultime imprese del nostro premier hanno fatto il giro non solo d'Europa, il giro del mondo. Tanto materiale per i comici in tante lingue. Però ieri ho ricevuto un'opera artistica di un artista che già abbiamo conosciuto. Lui è Janko Zetkov, artista bulgaro. L'abbiamo conosciuto perché ha disegnato queste mappe su quelli che sono un po' i luoghi comuni europei. Le abbiamo fatte vedere in radio, le abbiamo raccontate qualche mese fa. Ispirato dalle imprese di Berlusconi, ha disegnato questa Europa berlusconiana, e per farcela raccontare abbiamo quindi invitato un collaboratore, amico di Janko. Diamo il benvenuto a Emiliano Baragan. Ciao Emiliano. Ciao Federico, buongiorno, come stai? Molto bene, e tu? Bene, grazie di averci invitato di nuovo al tuo programma. Grazie a te. Allora, però mi devi aiutare, Emiliano, perché insomma la carta, la mappa geografica a questo giro, insomma, non è facile parlarne, perché insomma ci sono è anche un po' volgare, insomma ci sono anche battute a sfondo sessuale, l'ho già caricata nelle nostre pagine in Facebook, cercheremo di essere edulcorati nel raccontarla. E cosa ha fatto Janko questa volta? Bene, prima voglio dire che è importante sapere che questa mappa è una visione umoristica un poco immaginaria, no? Sì. E anche attribuisce a Berlusconi stereotipi generali che ha forse nella mente. Certo. Sì. C'è una parola che insomma non possiamo dirla in radio, noi l'abbiamo tradotta come donna o ragazza. Ecco, per ogni nazione europea c'è una sorta di visione berlusconiana della donna di quello Stato. Ci vuoi fare una veloce carrellata? Sì, assolutamente. Per esempio, ha scelto per titolo una fusione moderna tra geografia e ginecologia. Sì, oppure la mappa geografica. Perfetto. Adesso abbiamo per esempio l'Islanda, che è il paese dei pesci, l'Irlanda, donne druide, l'Inghilterra, lui chiama questo paese la regina, perché quando lui pensa alle donne inglesi pensa forse alla sua amica la regina d'Inghilterra, e dico amica perché c'è stato quell'episodio in cui Berlusconi ha chiamato a gran voce Obama dopo aver fatto la foto di rito alla riunione del gruppo dei 20, dove la regina sconvolta gli ha domandato ma perché deve urlare, rimproverandolo, no? Sì. E poi la Francia è diventata la bravissima Carla, che mamma mia, invece è l'Italia, le ragazze inquadrate in Austria, in Germania, certo, sì. Uomini più bassi di me, siamo in Russia, lì c'è stata una variazione sul tema, vero? Ecco, sì, perché lui dice che è il paese degli uomini più bassi, perché Berlusconi si lamentava del fatto che la stampa lo rappresenta come un uomo di bassa statura, e lui si giustifica dicendo che Putin è ancora più basso di lui. Insomma, tanta satira e tanta ironia su questa mappa geografica che so che sta avendo molto successo, vero? Sì, assolutamente, assolutamente. In pochi giorni, due giorni fa l'ha fatta, e penso che verso 3.000 visite? 3.000 visitatori, sì, nel giro di poche ore. L'abbiamo caricata sulle nostre pagine in Facebook. Emiliano, grazie davvero per avercela raccontata. Complimenti grazie a Janko, insomma, per la sua ironia. Buon compleanno, credo sia il tuo compleanno oggi anche. Sì, è stato ieri, sì. Perfetto. Ciao, buon sabato. Ciao. E finisce qui questa puntata dell'Altra Europa. Un grazie a Margherita Ina e a Giorgio De Luca, che hanno collaborato alla realizzazione. trasmissione. Peter Bescapè alla parte tecnica. Noi ci ritroviamo qua sabato prossimo. L'altra Europa è radio24.it, è il nostro indirizzo di posta elettronica se volete farvi vivi, oppure ci trovate in Facebook o sul nostro sito radio24.it. Ancora ciao da Federico Taddia.